come organizzazioni sindacali già da tempo avevamo iniziato un tavolo di trattative con l'azienda Olacek, che è un'azienda che gestisce l'appalto TIPER di controllo e verifica dei titoli di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico cittadini. I motivi del tavolo di trattativa erano dati dal recupero di differenze retributive date dalla errata applicazione di un integrativo provinciale del contratto collettivo dei multiservizi, nonché anche motivi di ragione organizzativa che riguardavano l'organizzazione del lavoro dell'azienda durante questo particolare periodo, no, di pandemia, zona rossa, quindi con le difficoltà del caso. Noi denunciavamo una difficoltà da parte dei lavoratori impiegati di anche comprendere qual era l'organizzazione della loro attività lavorativa, sia per quanto riguarda i controlli sulle linee urbane che i controlli sulle linee extraurbane. L'azienda purtroppo si è sempre dimostrata particolarmente sorda alle nostre richieste di confronto, che sia chiaro non volevano essere assolutamente un tentativo di agire o prevaricare il potere dell'azienda, insomma, di organizzare il proprio servizio, ma di chiedere una verifica, un confronto al fine appunto di garantire ai lavoratori la possibilità di rispettare regole certe del servizio in piena sicurezza, naturalmente dato dalla zona rossa, le restrizioni, quindi anche proprio la loro sicurezza sul lavoro. Questi lavoratori appunto sono lavoratori che vanno in giro per la città, nell'ultimo periodo anche per la provincia, per assicurare questo servizio di controllo e verifica dei titoli di viaggio sui mezzi pubblici. Purtroppo appunto, come dicevo, l'azienda si è sempre dimostrata sorda alle nostre richieste di confronto e abbiamo attivato uno stato d'agitazione, abbiamo fatto un primo sciopero nel mese scorso, quindi tra febbraio e marzo, e la cosa, diciamo, che ci è dispiaciuta particolarmente è che a seguito dell'apertura dello stato d'agitazione sono iniziati dei controlli sull'attività lavorativa, sul lavoro dei nostri iscritti, dei nostri lavoratori, un'attività di controllo dei lavoratori che purtroppo abbiamo scoperto dalle lettere di contestazione che sono arrivate e che hanno portato poi agli attuali licenziamenti, che vengono chiamati licenziamenti per motivi disciplinari. Quello che però noi denunciamo oggi è il fatto che questi controlli sono arrivati ed è specifico nelle contestazioni dell'azienda, perché nell'ultimo periodo si registrava un calo delle multe, un calo delle linee controllate e un aumento dei verbali non consegnati all'utenza, perché l'utenza non, evidentemente, cioè chi non si rifiuta di ritirare le multe. Le contestazioni disciplinari sono avvenute oltre a questo, quindi noi ne contestiamo anche, diciamo, la formazione del controllo di alcuni lavoratori, non tutti, senza garanzie, quindi senza sapere chi e come controllava. Ne contestiamo le premesse di questo controllo, perché insomma si stava facendo una verifica, diciamo, sulla produttività dei lavoratori e ricordiamoci che in una situazione del genere, di pandemia, di divieto di spostamento, sicuramente anche sull'utilizzo del trasporto pubblico un'incidenza negativa c'è, quindi quello è fuori discussione, ma anche i comportamenti contestati ai lavoratori, quindi per quanto riguarda gli adempimenti sul loro lavoro, ovvero le pause, lo stato di necessità in cui si trovano questi lavoratori durante il loro lavoro, quindi appunto la possibilità di ripararsi dal freddo, nell'attesa di un autobus, nell'attesa del controllo di una linea, la necessità di anche semplicemente espletare bisogni fisiologici e tutto il resto, erano richieste delle organizzazioni sindacali oggetto del tavolo di trattativa dell'azienda, che purtroppo appunto, come dicevo prima, ha preferito provvedere allo scontro, alle contestazioni, addirittura ai licenziamenti, invece che cercare di mettere in sicurezza la situazione, anche al fine poi di garantire un servizio in piena sicurezza e nel pieno rispetto delle regole. Oggi appunto siete in sciopero e in presidio, e impugnerete questi licenziamenti? Assolutamente, sono già stati impugnati. Come dicevo, sono stati impugnati non solo nel merito, quindi non solo con riferimento ai motivi della contestazione, ma anche alle ragioni che hanno portato a questa campagna di procedimenti disciplinari. Quindi noi ne contestiamo direttamente le premesse, uno perché appunto i controlli che hanno portato alle contestazioni disciplinari sono avvenuti un minuto dopo l'apertura dello stato d'agitazione, quindi l'interruzione del tavolo di confronto, ma anche appunto perché dietro questa azione dell'azienda si nascondono altri motivi, cioè un controllo dei lavoratori meno produttivi, dei lavoratori che a causa, noi ripetiamo, delle difficoltà del momento, gli si contestava una scarsa produzione di verbali, di multe e una scarsa attività di controllo.